OCSE, Istat e Banca d'Italia hanno certificato ieri che la crisi è profonda. Un terzo delle famiglie ha riserve economiche per soli 3 mesi, dice tra l'altro la nostra banca centrale. Il governo prova a far ripartire il paese con il cosiddetto decreto semplificazioni. L'idea è quella di facilitare la vita dei cittadini, ma soprattutto di accelerare la realizzazione di una serie di opere. 130 quelle considerate più importanti, in parte elencate ieri dal Presidente del Consiglio dopo l'approvazione salvo intese delle norme. Basterà? Lo vedremo. Di certo il problema sanitario in sé, per quanto attenuato, non è finito. Potrebbero essere 600 i cittadini bengalesi atterrati in Italia nei giorni scorsi e positivi al virus, stando ai calcoli del Ministero della Salute. E mentre gli Stati Uniti fanno segnare il record di contagi con oltre 60.000, si scopre positivo il quasi negazionista del Covid, il presidente brasiliano Bolsonaro. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, eccoci, sono le 6:32 minuti, è mercoledì 8 luglio. C'è Carmelo Lauricella in regia, Anita Panizza in assistenza, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciarafo che sono i nostri autori, e poi ovviamente ci siete voi come sempre, 349-238-6666. Per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, fatele sentire, mi raccomando. Siamo anche in diretta su Facebook, come sempre, ci trovate su Twitter, su Instagram, ovunque. Allora, da cosa iniziamo oggi? Beh, direi decisamente dal decreto semplificazioni. Questo decreto semplificazioni è arrivato dopo una gestazione abbastanza lunga e approvato ieri salvo intese. Cosa vuol dire questa formula? Vuol dire che un testo non ce l'abbiamo, vuol dire che devono ancora trovare l'accordo tra alcuni ministeri su una serie di cose. Il presidente del Consiglio Conte lo definisce il trampolino di lancio per l'economia italiana, il momento di rilancio dell'economia italiana. Questa riforma è il trampolino di lancio di cui l'Italia in questo momento ha bisogno. Siamo in un'emergenza ed è chiaro che questo decreto è la premessa necessaria per il rilancio del Paese, per renderlo finalmente più agile, più moderno, più competitivo. Poi aggiunge che sì, l'Italia deve correre, ma nella legalità. Fa sapere che ci saranno semplificate le regole per gli appalti, saranno appalti più semplici. Avremo degli appalti più semplici, più veloci. Niente gara di appalto sotto i 150.000 euro. I lavori verranno affidati direttamente alle ditte, quindi ci sarà un affidamento diretto che adesso è fino a 40.000, verrà elevata la soglia a 150.000. Da oggi con questa norma le pubbliche amministrazioni saranno in grado di far partire da subito opere importanti per l'intera comunità di riferimento. Vedremo se si riuscirà a coniugare la legalità con la possibilità di affidamento diretto fino a 150.000 euro, soprattutto nelle piccole realtà. Già lo segnalavamo ieri qualche rischio su questo fronte. Il Presidente del Consiglio fa poi un elenco, perché a fianco a tutto questo, accanto a tutto questo, c'è un elenco di 130 opere che dovrebbero partire presto. Sentiamo, sentiamo. Andremo quindi a realizzare speditamente alcune di queste opere: alta velocità di rete Salerno-Reggio Calabria, alta velocità di rete Palermo-Catania-Messina, che va in gara già quest'estate, alta velocità Pescara-Roma e Pescara-Bari, alta velocità ancora Genova-Ventimiglia, alta velocità Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica, ampliamento della Salaria. E via così, e via così, e via così. Caro Francesco Specchia, firma di Libero, direttore di Pop Economy. Francesco, come stai? Buongiorno, bentornato. Buongiorno, bene, eccoci qua. Anche voi. Eccoci qua. Senti, al di là del salvo intese, al di là del vedremo quale sarà la versione definitiva, al di là poi di tutte le tensioni politiche che ci sono state dietro tutto questo, mi pare di notare, dal punto di vista, chiamiamolo strettamente politico, il segno della vera mutazione genetica del Movimento 5 Stelle in quello che ha raccontato ieri il Presidente del Consiglio, perché la riduzione dei controlli di legalità e questo elenco di grandi opere nelle quali le prime cinque nominate, l'hai sentito, sono alta velocità, c'è anche la Gronda di Genova, beh, insomma, è qualcosa, eh? Sì, il Conte ha fatto questo elenco di opere prioritarie e con un costo complessivo tra l'altro di 200 miliardi, quindi un pacchetto di impulso estremamente espansivo, ed è quello che ci si aspettava dopo un momento di crisi, e viva Dio che c'è stato, ma speriamo appunto che poi si metta tutto a terra come al solito, perché il decreto di fatto non c'è, perché c'è un articolato che l'hai detto tu, è in bozza, non c'è tantomeno la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ed è il frutto di un salvo intese, che molto spesso vuol dire senza intese, perché vuol dire che tutto quello che hai detto può essere suscettibile di cambiamento da un momento all'altro. Quindi nel momento stesso in cui poi avremo la contezza del fatto che questo decreto partirà con tutti i cascami positivi del caso, allora potremo dire che Conte sta facendo un buon lavoro. Io ieri sentivo, non ho letto del tutto l'articolato, la bozza, l'ho letta, sì. Però per esempio Sabino Cassese, sì, noto costituzionalista, il quale ha detto che gli pare che sia stato fatto il meno possibile sul maggior numero di materie, e quello che è stato fatto male. Sì, ti dico Francesco, ti interrompo solamente perché l'abbiamo avuto ospite ieri mattina alle 8:20, Cassese aveva anche lui solamente la bozza delle 19 del giorno prima, e soprattutto diceva, insomma, il problema è che anche se parte qualcosa, tra che questo decreto viene approvato, tra che diventa legge perché viene approvato dai due rami del Parlamento, tra che arrivano i decreti attuativi, le amministrazioni implementano le norme e via dicendo, beh, prima di gennaio difficile che partano le opere, difficile. Sì, ma speriamo che comunque partano. Non è un modello Genova, perché il modello Genova ha scavalcato, è stato un modello, secondo me, un lampo nella notte, ha scavalcato tutte le procedure, e col modello Genova si saltava qualsiasi cosa salvo le norme penali, per cui si è riusciti a ricostruire a tempi estremamente di record, bisogna riconoscerlo, però lì c'è stata una concordanza di eventi e di volontà politica sia a livello territoriale che a livello centrale. Qua bisogna vedere, il problema vero è che ieri il dato più forte è che il PIL è calato all'11,2%, che ci sono state le famiglie che sono in sorte dicendo: guardate, se continua così non ce la facciamo ad arrivare veramente a pagare il mutuo a fine mese, e non andiamo in vacanza, il 30% delle famiglie italiane non andrà in vacanza, il 40% è in difficoltà estrema, e siamo vicino alla soglia della povertà per più di 5 milioni di italiani, quindi bisogna fare presto. È questo che, e poi che Conte dici tu, l'impeto di Conte è assolutamente encomiabile, e tra l'altro non è, io ti correggo, non è un modello nuovo, una mutazione genetica di 5 Stelle, ma è semplicemente Conte che ha superato i 5 Stelle e che li ha messi da parte. Questo Questo è un punto interessante. Ci scrive un ascoltatore, Valerio D'Ancona, così vorrei anche rispondere ad altri che dicono siete sempre molto critici col governo. Valerio dice: mi fai capire se c'è qualcosa che va bene. Allora, in linea di principio, il fatto che si facciano queste 130 opere, che partano, che si snellisca la burocrazia, ragazzi, ma siamo tutti perfettamente d'accordo. Il tema è un po' con quali strumenti fai queste cose. Ok, ci sono alcuni elementi interessanti all'interno del decreto, in linea di principio, e ripetiamo, finché non abbiamo l'articolato non lo possiamo dire, in linea di principio ci sono alcune cose interessanti, per esempio il fatto che tu inizi a sanzionare la perdita di tempo da parte delle amministrazioni, il fatto che tu inizi a tutelare un po' di più i dipendenti pubblici che hanno paura a mettere la firma e i dirigenti pubblici che hanno un po' di paura a mettere la firma, no? Perché hanno paura, Francesco, di incorrere in sanzioni penali, in inchieste penali. Tutto questo va benissimo, ovviamente. Poi bisognerà vedere la sostanza e l'articolato, è un po' questo il tema. Non... Sì, di fatto hai ragione tu, con queste nuove norme teoricamente rischia di più quello che non sblocca rispetto a quello che sblocca, questo è fondamentale. È un punto... Quindi, che è un punto essenziale poi nella concezione della burocrazia italiana, no? Ed è quello che è il punto previsto tra l'altro nelle decine e decine di pubblicazioni di Giuseppe Conte, giurista, perché lui si occupava specificatamente di questo. Sì. Il problema grosso è che in questo periodo, mentre noi pensiamo a sbloccare tutto dal punto di vista burocratico, la burocrazia è cresciuta del 30%. Quindi noi dovremo prima limare questo piccolo particolare, sì, e poi procedere al resto. Certamente, l'altro elemento interessante è il fatto che si è deciso che l'opera, un'opera iniziata, vada avanti anche se scatta il contenzioso, cioè di solito il contenzioso nel momento nel quale ricorreva un'altra azienda, magari aveva perso la gara d'appalto, bloccava l'opera. Si è deciso, almeno dovrebbe essere contenuto in questo decreto, che salvo espressa indicazione di un giudice, l'opera va avanti. Anche questo è un punto importante. Poi sai, il TAR ci sarà sempre, il TAR che ferma l'opera ci sarà sempre, ovviamente. Sono anche un altro po' di cose, le autocertificazioni che arrivano con l'app, il tema della transizione energetica, delle frasi, e qua un'altra volta direte: oh, siete antigovernativi. No, non è questo, è che le sento da quante volte le sai questa storia dello Stato amico delle imprese, lo Stato diventa amico delle imprese. Avremo uno Stato amico delle imprese, aumentiamo l'importo dell'erogazione dei contributi alle imprese in un'unica soluzione, la nuova Sabatini, abbiamo semplificazioni anche nell'erogazione dei contributi del settore agricolo. Io non smetto di sperare comunque, perché questa cosa la sento da 30 anni, lo Stato che diventa amico delle imprese, guardate, non è un problema di Conte, cioè tutti i governi da 30 anni e poi lo Stato non è mai amico delle imprese, Francesco, alla fine. No? Sì, no, assolutamente quello, aveva ragione Bonomi onestamente nel dire state attenti, perché quello che serve invece della pioggia di bonus che abbiamo avuto fino adesso, che è molto elettorale, è in realtà l'idea di fare una rete di sicurezza nei confronti proprio delle imprese, che sono il tessuto, il nervo della nazione, ma soprattutto quando si parla di rete di sicurezza vuol dire moratoria ulteriore per le tasse, slittamenti, si parla di necessità di aiutare le piccole e medie imprese in vari modi, non certo mantenendole in vita con le decotte, che è la cattiva abitudine delle banche, ma per esempio rendendole partner delle grandi imprese e non più semplici fornitrici. Potrebbe essere l'idea. Ci sono un sacco di idee che sono sul piatto, ma queste non sono state toccate. Almeno per il momento. Sì, mi auguro comunque, non adesso non siamo pessimisti, adesso, qualcosa si sta facendo. Speriamo che vada tutto a terra, si metta tutto a terra. A proposito di dossier che ci trasciniamo da un tempo infinito, sentiamo, ma nemmeno ve lo annuncio, via Carmelo, forse vai. Forse non ve ne siete accorti, Alitalia è stata sbloccata e troverete anche una norma Alitalia in questo decreto per quanto riguarda l'aspetto finanziario. Abbiamo individuato il nuovo management, abbiamo già quindi individuato le figure autorevoli che stanno già lavorando con gli advisor, anch'essi già individuati, per elaborare un piano industriale che metta la nuova compagnia nelle condizioni di camminare con le proprie gambe. Questo governo non vuole essere il governo che interverrà nuovamente per finanziare la nuova compagnia. La nuova compagnia deve stare sul mercato, camminare con le proprie gambe. Beh, del resto 3 miliardi già ce l'abbiamo piazzati, quindi, quindi ormai è fatta, ormai è fatta. Altri soldi, anche perché purtroppo anche basta. Che abbiamo trascurato delle cose importanti tipo la scuola, della scuola non si è parlato, cioè, abbiamo messo 1,4 miliardi sulla scuola. E il benedetto ministro Fioroni del Movimento 5 Stelle, poi in fondo aveva già ragione, non aveva tutti i torti quando voleva. Fioramonti, Fioroni. Scusate, era quello. Sì, un lapsus freudiano. Sì, Fioramonti aveva ragione nel dire che c'erano 3 miliardi da mettere lì, e poi alla fine sono arrivati 1,4 miliardi, però noi 3 miliardi abbiamo messo sulla Italia. Quindi cioè, ci sono dei serissimi problemi sulla scuola. Siamo quelli che investono di meno, il 7% delle risorse. Lo sappiamo, e questa ripartenza, la ripartenza di settembre non sarà facile, traffico. E non sarà facile, sarà terrificante per i nostri figli, per noi. Complicata. Traffico. Allora, per essere chiari, qua nessuno mette in dubbio che tutti quanti, dal governo in giù, abbiano tutte le migliori intenzioni di fare le cose migliori per il paese. Poi c'è tutta invece un'altra questione, che è la messa a terra di quello che si decide. Per esempio, nessuno ha intenzione, immagino, di lasciare i lavoratori senza cassa integrazione. Poi però, quando vai a mettere a terra i provvedimenti, le cose cambiano. E ieri vi abbiamo raccontato, lo raccontava bene un pezzo sul quotidiano La Repubblica, di 2 milioni di persone ancora in attesa, perché per esempio l'INPS, all'INPS mancano da esaminare oltre 100.000 domande che riguardano 1,5 milioni di lavoratori. L'altro 500.000 di lavoratori senza cassa integrazione, beh, riguarda il mondo degli artigiani, dove anche là c'è un intoppo. Buongiorno a Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. Eccoci, Fumagalli. Buongiorno a lei. Dov'è l'intoppo? Beh, questa volta è davvero una commedia assurda, perché le risorse sono state stanziate con il decreto rilancio. Dal decreto rilancio ad oggi sono passati 45 giorni e le risorse stanziate non sono state trasferite se non per una piccola parte, e nei giorni scorsi, non molti giorni fa, davvero in modo incomprensibile, anche perché saldo per arrivare a 750 milioni, quelli stanziati per il mondo dell'artigianato, ancora devono essere trasferiti per la parte più importante, per circa 500 milioni. Quindi siete in sostanza... Tutte le procedure fatte, sono pronte, possono essere erogate, e abbiamo con gli ultimi, con i 358 milioni stanziati a favore di FSPA, in 24 ore sono stati fatti i bonifici sui conti correnti dei lavoratori, ma ancora oggi stiamo aspettando che il Ministero del Lavoro trasferisca i fondi congiuntamente al DEF. Quindi manca 500 milioni di euro sostanzialmente. Sì. Stanziati, la cosa sono già stanziati, quindi in sostanza che cosa c'è? Un intoppo burocratico, da quel che avete capito voi? Qual è il problema? È davvero terribile pensare che ci vogliono più di 40 giorni tra il dire e il fare a risorse stanziate. Senta Fumagalli, già che l'abbiamo in linea, beh, insomma, ci dia un po' una misura di come il settore sta vivendo questa fase, un settore che poi in realtà non è un settore, ma è un mondo, no? Quello degli artigiani, e che comprende tanti settori, ovviamente. Mi dà una misura. Guardi, con una intonazione di fondo che è quella che appena finito il lockdown, per il quale abbiamo anche lottato a strappare ripartenze senza ritardi che allora davvero sembravano poco giustificati, si è girato subito le maniche indietro per darsi da fare. Questo per una serie di settori, per fortuna sta avvenendo per buona parte della manifattura in modo anche accelerato. Ci sono settori dove le condizioni proprio delle catene di fornitura, dove le imprese artigiane sono coinvolte, hanno subito forti rallentamenti, alcuni non degli stop non rimediabili, il mondo della moda e il mondo delle connessioni con il turismo, il trasporto persone per esempio, ecco, questi sono settori ancora in sofferenza, però anche qui le iniziative che sono state messe in campo anche dal governo, mai sufficienti per l'amor del cielo, però la cosa più grave a cui abbiamo assistito è vedere che risorse stanziate, debito pubblico fatto che dovremo tutti insieme ripagare, abbiano in mezzo questi intervalli non giustificati. È successo per la questione della liquidità, è successo per la questione della cassa integrazione. Sì. È vero Fumagalli, dall'altra parte, che c'è storicamente un problema di messa a terra dei provvedimenti e di attuazione delle cose che poi vengono decise in questo paese, che dipende dal governo ma anche no, dipende dai meccanismi intrinseci del paese. Beh, però siamo stavolta davanti tutti a un'evidenza. Credo che quel che in tempi normali abbiamo purtroppo, dico, imparato a sopportare, a far diventare ordinario, se non reagiamo tutti insieme, ognuno per le proprie parti di responsabilità, con un colpo di reni, che ci faccia fare almeno quello che possiamo. Leggo per esempio su semplificazioni per le parti note che dovrebbe trasformarsi tutti i rapporti con la pubblica amministrazione in digitale. Quanti anni è che ce lo raccontiamo, questo lo sentiamo raccontare. Siamo andati avanti con alcuni miti non sfatabili fino a qui, lo speed, pochissimi italiani hanno potuto fare lo speed. Finalmente oggi diciamo che con la carta d'identità elettronica si potranno fare le stesse cose, ci auguriamo che molto rapidamente. Sì, se l'ho annunciato ieri la ministra Pisano, tra l'altro. Ci scrive un'ascoltatrice, Mara, dice: io e mio marito artigiani abbiamo preso 600 più 600 più il contributo a fondo perduto puntualmente, mi ritengo soddisfatta, con il debito pubblico che abbiamo lo Stato più di questo non può dare, bisogna capirlo, è una posizione assolutamente rispettabile, Mara. È vero dall'altra parte che ci sono persone invece che questi 600 euro li hanno visti con molto ritardo, persone che il fondo perduto l'hanno visto con molto ritardo, hanno passato dei periodi di grande sofferenza, e certo bisogna anche riconoscere che è stato un periodo delicato anche per il legislatore e anche per la macchina statale, che si è trovata a gestire oggettivamente una massa di cose da fare. No? Ancora la maggior parte dei dipendenti della pubblica amministrazione in smart working, fatto in quella modalità improvvisata, come è stato farlo sostanzialmente più in remote working che in smart working, forse se fossero tornati, se tornassero più rapidamente ai posti di lavoro e poi rifare lo smart working quando sarà possibile farlo più, in modo più organizzato, sì. Davvero fissando gli obiettivi, forse c'è qualcosa che non è funzionato, forse c'è qualcosa che non ha funzionato anche da quel lato. Grazie comunque Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, e Francesco Specchi, editorialista di Libero e direttore di Pop Economy. Avrei voluto farvi sentire, ma non abbiamo il tempo, il viceministro Sileri, che tra l'altro sarà il nostro ospite alle 8:20, dice: se non aumentano il salario degli infermieri mi dimetto, ma ne parleremo proprio con lui alle 8:20, sarà ospite mio e di Maria Latella. Poi sul fronte Covid abbiamo anche Bolsonaro, l'annuncio di che è positivo al Covid, ma ormai lo sapete, insomma l'avete sentito anche in GR24. Alle 8:35 avremo ospite anche la ministra Paola De Micheli, e quindi di grandi opere, di autostrade e via dicendo parleremo. Intanto ci fermiamo e ci ritroviamo tra un attimo con la rassegna stampa.